633. Dolce di chiare d'uovo. Se avete d'occasione delle chiare d'uovo che non sappiate come consumare, potreste fare un dolce nel seguente modo, che riesce buono. Chiare d'uovo numero 8-9, farina d'Ungheria grammi 300, zucchero a velo grammi 150, burro grammi 150, uva sultanina grammi 100, cremor di tartaro grammi 10, bicarbonato di soda grammi 5, odore di zucchero vanigliato. Montate le chiare e versate nelle medesime la farina e lo zucchero. Mescolate e poi aggiungete il burro liquefatto. Quando il composto sarà tutto unito, aggiungete le polveri e per ultimo l'uva. Versate il composto in una teglia unta col burro e spolverizzata di zucchero a velo e farina, ove il dolce riesca alto, almeno due dita. Cuocetelo al forno o al forno da campagna e servitelo ghiaccio.